che io non capisco, tolta la svolta cubana o bolscevica improvvisa del PD, non capisco allora come un uomo come Colaninno possa stare in un partito che va verso una svolta cubana, ma riprenderemo dopo. Parenzo, ti puoi dare le risposte da solo, perché Colaninno resta lì dentro, probabilmente ci sarà qualcuno che fa un esame di coscienza diverso, cioè, e mi fermo qui. La risposta la dica tutta, perché lei parla sempre chiaro, cioè ha avuto dei come dire, è lì perché ha avuto dei favori da qualcuno? No, io credo che Colaninno abbia un papà che fa un certo tipo di operazione, un papà che ha un certo passato, un papà che ha avuto certi favori nel passato, e mi fermo qui. Io non ho avuto cosa c'entra questo con la scelta, con la scelta di, per esempio, di non aderire al documento di Veltroni, o comunque con il fatto di restare all'interno del PD? Cosa c'entra questo? Me lo spieghi, perché questo altrimenti la gente che non sia più giusto che lo chiedete a Colaninno. No, ho capito, perché però lei non può dire padre, siccome il padre eccetera eccetera, e poi lasciare la cosa così sospesa. Mi scusi, non è da lei. Credo che lo sappiano tutti gli italiani. Quando Colaninno ha acquistato la Telecom, chi c'era presidente del Consiglio? Punto. Sì, c'era D'Alema, d'accordo. Allora... Perfetto. Quindi credo che ci sia un rapporto corretto tra suo padre D'Alema e tra il padre e il figlio. Punto. E due, per questo. Per ragioni, e per tale ragione penso che sia una scelta diversa. Economiche e non politiche. Per avere coperture politiche, è questo. Questo lo dovete chiedere a loro.